24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:20 minuti, cari ascoltatori, pronti a leggere i giornali. Vi ricordo che poi avremo ospiti Ivan Scalfarotto, che è stato eletto nel Partito Democratico, per capire cosa sta succedendo anche all'interno del partito dopo questa vittoria non vittoria. E poi avremo ospiti anche il professor Massimo Cacciari, ieri urticante nei confronti del centrosinistra, e Gianfranco Rotondi, ex ministro rieletto nel Popolo della Libertà, alle 8:30, per capire allora che cosa succederà adesso. Governissimo, governone, governicchio, governo di scopo, governo di larghe intese, governo non governo, si va a votare, che succede? Boh, non si capisce niente. Intanto andiamo a leggere i giornali. Mercoledì 27 febbraio, i titoli, il Sole 24 Ore, lo shock elettorale travolge borsa e spread, questo il titolo di apertura, mentre il Corriere della Sera sceglie le elezioni in Lombardia, il titolo è La Lombardia sceglie Maroni, questa è l'apertura. Tutti gli altri quotidiani invece si concentrano sulla possibile apertura di Bersani del PD a Grillo. Bersani apre a Grillo, no al PDL, così titola Repubblica. Per il Fatto Quotidiano, Bersani si aggrappa a Grillo. La Stampa, Bersani apertura a Grillo. Libero, Bersani ci rovina. Il Messaggero, Bersani chiede aiuto a Grillo. Il Secolo XIX, Bersani ci prova con Grillo. L'Unità, Bersani sfida Grillo. Vedete che questi sono i due nomi più gettonati. Il Giornale, giù le mani da Berlusconi, il risultato elettorale fa ripartire l'assalto dei PM, 3 processi in un mese. Il Manifesto, il governissimo, Avvenire, governissimo o governino. Queste le aperture, insomma, dei quotidiani. Io voglio partire, lo so che molti italiani hanno provato soddisfazione anche nel leggere una serie di persone che non saranno più in Parlamento. Sono tante, per esempio Ingroia non è entrato, Di Pietro non c'è più, Di Liberto non c'è più, cioè non c'era neanche prima, Ferrero non ce l'ha fatta, Giulia Bongiorno è fuori, il Giornale mette anche Fabio Granata, Franco Marini del Partito Democratico, Emma Bonino, Fini, Gianfranco Fini, insomma tante persone che non faranno più parte o alcuni non rientrano in Parlamento, e molti italiani hanno detto oh, per l'uno per l'altro almeno una buona notizia. Ecco, allora adesso tenete bene le mani ben salde sul volante, mani sul volante, perché oggi Libero vi racconta che insomma queste persone che escono dal Parlamento hanno diritto, perché così prevede la legge, a un TFR, una buona uscita, oltre al vitalizio, ovviamente, per chi l'ha già maturato, per chi magari ha l'età per percepirlo già. Il TFR, quanto ci costano i trombati, di Franco Bechis in prima pagina di Libero, le buone uscite di Fini e dei trombati, il più illustre, come l'ha definito ieri senza mezzi termini la Presidenza del Consiglio dei Ministri sul proprio sito internet, dei trombati, è il Presidente della Camera Fini, è lui il bocciato più celebre, col suo partito praticamente scomparso, Future Libertà ha ottenuto lo 0,46% alla Camera. Ma tra un paio di mesi, scrive Bechis, intascherà Fini l'assegno di fine mandato, a quanto ammonta 260.000 euro netti. È una sorta di liquidazione pari all'80% dell'indennità parlamentare lorda per ogni anno in cui sono stati in Parlamento, e anche per frazioni di anno superiori a 6 mesi. Tra l'altro fantastica questa, cioè uno 6 mesi e un giorno viene conteggiato come un anno. E, avendo più di 60 anni poi, Fini potrà andare già in pensione e ricevere il vitalizio, quindi oltre ai 260.000 euro netti di TFR otterrà anche un vitalizio da 6.200 euro netti al mese finché campa. E poi c'è Italo Bocchino, anche lui che è giovane, classe 67, quindi non percepirà per il momento né il vitalizio né la pensione per altri 17 anni, ma come parlamentare una buona anzianità, è stato eletto dal 96, quindi può contare su un assegno di fine mandato, Italo Bocchino, di 150.000 euro. Di Pietro, prenderà una liquidazione da circa 60.000 euro perché ne ha già ricevuta un'altra, già in passato, perché già una volta è stato escluso dal Parlamento. E potrà prendere dal mese di aprile anche la pensione di parlamentare vitalizio, 4.300 euro netti al mese per Antonio Di Pietro. E ancora Emma Bonino otterrà una liquidazione da 60.000 euro e una pensione mensile netta da 6.500 euro. Poi Franco Marini, già presidente del Senato, avrà una liquidazione, il TFR, da 188.000 euro e una pensione mensile netta da 5.300 euro, che si cumula tra l'altro con quella da sindacalista. Dunque doppia pensione per Franco Marini. Fuori dal Parlamento anche l'UDC Ferdinando Adornato, liquidazione da 112.000 euro e dall'anno prossimo pensione mensile netta da 4.500 euro, che si cumulerà con la pensione anche da giornalista. Questi alcuni raccontati da Libero, ma insomma è tutto a norma di legge, a strettissima norma di legge. Cari italiani, mettetevi l'animo in pace e togliete pure le mani dal volante, non rubano nulla, è tutto previsto dalla legge. E torna, come poteva mancare dopo un po' di tempo, il comandante preferito da tutti noi, Francesco Schettino, racconta a pagina 22 Il Messaggero. Ieri c'è stato un'udienza dopo la richiesta di invio a giudizio della procura di Grosseto depositata alla cancelleria del tribunale. Schettino: nessun reato da parte mia, ho evitato di affondare. Ieri si è parlato della vicenda con le stesse parole di un anno fa, utilizzando aggettivi come criminale, che nulla hanno a che fare con la gestione dello scenario creatosi a seguito di un incidente dove l'obiettivo primario da raggiungere è stato quello di salvaguardare la vita umana e nient'altro. È inaccettabile parlare di crimine, così ha detto Schettino. E poi sulla questione dell'abbandono nave, chiunque abbia studiato la vicenda ha ormai compreso come fosse impossibile per me, per il comandante in seconda e tutti gli altri ufficiali restare su un ponte diventato ormai verticale. È stato accertato da testimonianze di come io abbia cercato di risalire ben due volte, continuando comunque a coordinare lo sbarco da terra, cosa che da sott'acqua mi sarebbe risultata difficile. Così Schettino, che ha anche aggiunto: si è parlato di manovra scellerata quando dalle indagini è emerso che i miei ordini e la rotta da me approvata erano di passare a circa un chilometro dall'isola. Dunque uno Schettino che dice: non ho compiuto alcun reato, nulla di criminale, ho coordinato lo sbarco da terra, da sott'acqua era difficile. Ci toccherà quasi ringraziarlo. Andiamo alle informazioni su meteo e pubblicità e poi rientriamo. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Allora, alle 7:33 minuti siamo pronti a tuffarci in un'altra giornata di giornali densi, pieni di reazioni dopo le elezioni. Il punto di partenza per molti quotidiani è Giorgio Napolitano. Tutti guardano al Quirinale. Ieri Napolitano in una visita di Stato in Germania, a Monaco di Baviera. La mossa di Napolitano, come racconta il Corriere della Sera, è aspettare le riflessioni dei partiti. È uscito ieri davanti alla selva di cronisti, quasi inciampa, racconta il Corriere della Sera, pagina 10, di fronte al muro dei cronisti giunti dall'Italia. Voi siete tutti persone abbastanza adulte. Quindi, con una nota del redattore, scrive Marzio Breda: dunque capitemi, è il sottinteso. Io vi faccio solo una dichiarazione, che è la seguente: il Presidente della Repubblica può solo attendere, con eguale rispetto per tutti, che le forze politiche rappresentate in Parlamento facciano le loro riflessioni alla luce del risultato delle elezioni e gliele riferiscano in occasione delle consultazioni al Quirinale. Napolitano che non risponde ad altre domande, neanche alla domanda «le sembra un voto contro l'Europa?» «Non aggiungo niente, perché io non sono chiamata a commentare i risultati, sono chiamata a fare quello che ho appena detto, ad attendere che ciascuna forza politica, in piena legittimità e autonomia, faccia le sue riflessioni, che poi mi verranno prospettate, e allora io dirò quali conclusioni sono in grado di trarre». Questi concetti laconici espressi anche al collega tedesco Gauck, presidente della Repubblica Tedesca, rispondendo al suo saluto a Monaco di Baviera, dove il maestro Zubin Mehta dirige un'opera di Verdi. Sapete qual è l'opera, tra l'altro? Il Requiem, vabbè, non c'è da aggiungere molto, ma insomma, coincidenze. E in ogni caso, questa è la posizione del Quirinale. Tutti i giornali, come avete sentito, titolano sulla possibile apertura da parte di Bersani a Beppe Grillo. Sapete che in Senato c'è una maggioranza molto strana, composita, difficile da comporre, perché ci sono tre grandi forze. PD e PDL, più centro-sinistra e centro-destra, più o meno hanno lo stesso numero di senatori, e poi c'è il 54 del Movimento 5 Stelle, dunque tre grandi gruppi. È difficile arrivare a quella soglia di 158 di maggioranza se non con unendo alcune di queste tre forze. Bersani tenta la carta Grillo, così titola Il Sole 24 Ore. Emilia Patta, no a larghe intese, dice no al governissimo Bersani, non siamo quindi PD, PDL, non siamo qui a gestire per gestire, non vogliamo fare discorsi a tavolino, non credo che il paese tolleri balletti di democrazia, si riposassero, fa sapere al PDL. E poi invece l'apertura al Movimento 5 Stelle, il primo partito italiano, è giusto che venga coinvolto nella vita delle istituzioni. E poi dice, noi ha detto finora tutti a casa, ora sono qui, ci dicessero cosa vogliono fare per il bene del loro paese, di questo paese che è anche il loro e dei loro figli. Insomma, qui c'è l'apertura alla quale Beppe Grillo, come racconta il Sole 24 Ore, ha risposto non con una chiusura, perché ha detto ieri in una improvvisata conferenza stampa di fronte a casa sua, Grillo, noi non siamo contro il mondo, decideremo riforma per riforma, e ha indicato il modello siciliano dove ha vinto il presidente Crocetta e dove si governa provvedimento per provvedimento, cercando l'appoggio anche della folto gruppo di grillini eletti nel Parlamento siciliano. Certo, però ci sono molti retroscena. Il personaggio che vedrete più citato dai giornali, ma non parla, è silenziosissimo in questo momento, è Matteo Renzi. Tutti guardano a lui, è un profluvio anche su Twitter, sui social network, sulla rete, disse ci fosse stato Renzi, se avessero nominato Renzi, non sarebbe questa la situazione. Fuga in avanti del leader, ha il fiato di Renzi sul collo, così titola per esempio il Secolo XIX in un retroscena, parla di partito spaccato, una resa dei conti solo rinviata. Che cosa ha fatto Matteo Renzi? Per il momento è in silenzio, c'è un interessante retroscena anche di Federico Geremica sulla Stampa pagina 7, niente polemiche, ma non andrò a nessun vertice con la Bindi. Eccolo qui, Geremica, i giornalisti telefonano, pressano, insistono per le interviste, ma cosa dovrei dire che non ho già detto? E se poi pensano che ora mi metta ad attaccare Bersani vuol dire che non hanno capito niente, io non faccio lo sciacallo. Questo direbbe Renzi però ai suoi, sono virgolettati a lui attribuiti come sempre, perché di pubblico non dice nulla. Con Renzi avremmo vinto a mani basse, scrivono in molti. Se candidavamo Matteo, Grillo se lo sognava al 25%, scrivono altri. Riconoscimenti postumi, ricostruzioni, la speranza che possa decollare un progetto che lo stesso popolo del centro-sinistra però ha affondato nel ballottaggio del 2 dicembre. Sto zitto e non faccio polemiche, come dal ballottaggio in poi, conferma ieri Renzi allo staff, al suo staff riunito, ma non mi si chieda di condividere e soprattutto di venire a Roma per fare riunioni di caminetto assieme a Rosi Bindi, non è cosa che faccia per me. Ecco, questo anche Repubblica lo cita nel retroscena di Goffredo De Marchis. Ieri Renzi, lo trovate a pagina 3, non ha neanche risposto agli inviti pressanti, soprattutto di Vasco Errani, presidente dell'Emilia Romagna, uno che è considerato molto vicino a Bersani, l'ha chiamato più volte, ma Renzi si è rifiutato, scrive De Marchis, di partecipare alla riunione serale dei Big a Roma. Io non partecipo ai caminetti, a queste robe qui. Questa è la risposta che avrebbe detto Matteo Renzi. Nel partito scatta l'assedio al segretario, Renzi lo gela, non partecipo ai caminetti, questo è il titolo del retroscena pagina 3. Insomma, tutti guardano a Matteo Renzi, anche l'Unità scrive Renzi ai suoi, in campo ora è un'avventura inaccettabile. Questo sempre il retroscena di Vladimiro Frulletti sull'Unità a pagina 5. Tutti a tutti quelli che lo invitano a scaldare i motori, il sindaco di Firenze non risponde neppure, e poi alle sollecitazioni non vado a Roma, non mi confondo con Rosi Bindi. A questo punto è la strategia migliore, effettivamente, dal punto di vista politico, cioè non farsi tirare in mezzo a questa vittoria, non vittoria, per le stesse parole di Bersani, che dice siamo siamo primi, ma non abbiamo vinto. E se volete, beh, tutto un capire che cosa potrà succedere. E tra i retroscena chi spunta? Chi spunta di nome? Questo per Repubblica, Giuliano Amato. Eccolo qua. Francesco Bei racconta, pagina 11, ora tra le ipotesi torna Giuliano Amato, o quantomeno se ne riparla, perché il dottor Sottile potrebbe infatti essere richiamato in servizio nel caso fallisse il primo tentativo, quello fatto da Bersani per convincere Grillo a qualche forma di collaborazione. Del resto Amato, scrive Repubblica, che salvò il paese nella tempesta dell'estate 92, di recente artefice di un piano di riforma dei partiti e del finanziamento della politica, potrebbe avere per Napolitano il profilo ideale per guidare un governo di larghe intese PD, Monti, PDL. Capito cosa scrive Repubblica? Un'ipotesi di governo PD, PDL, Monti, quindi un governissimissimo, guidato da Giuliano Amato. Ecco, questa potrebbe essere la reazione del nuovo di fronte a quello che è successo, a quello che è successo ieri. Chi si spinge oltre è sul Fatto Quotidiano Michele Emiliano, sindaco di Bari, dirigente del Partito Democratico, intervistato da Beatrice Borromeo a pagina 5, dice addirittura sia Grillo a scegliere il premier. Per noi è un'opportunità, tocca a lui scegliere il Presidente del Consiglio e il PD deve appoggiare il Movimento 5 Stelle, non viceversa. Addirittura ribalta la situazione. Sì, dice Emiliano, ho passato la giornata a studiare le dichiarazioni di Grillo, è chiaro che escluda un dialogo con Berlusconi, gli unici possibili interlocutori siamo noi. Grillo scelga il Premier, propongo una serie di punti programmatici, il PD li voterà. Siamo addirittura al ribaltamento, cioè, e siccome ha vinto il Movimento 5 Stelle, è il primo partito alla Camera, deve scegliere il Premier. Ma chi sono coloro che hanno votato Grillo? C'è un'interessante analisi, almeno riguardante tre città, Torino, Palermo e anche invece no, una regione, il Veneto, ma soprattutto Torino e Palermo, da parte di Roberto Dalimonte e Lorenzo De Sio in prima pagina del Sole 24 Ore. Interessante analisi che arriva poi alla conclusione, che è quella del titolo: Grillo prende voti da tutti i partiti. A Torino soprattutto il Movimento 5 Stelle pesca da Italia dei Valori, SEL e PD, ma anche dalla Lega, e così anche trasversale il pescaggio, se si può dire così, di voti, o il travaso di voti da parte dei partiti tradizionali a quelli del Movimento 5 Stelle. Trovate l'analisi in prima pagina. Ma io, cari ascoltatori, devo dirlo, oggi farò questo gesto. Ritaglierò l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia in prima pagina del Corriere della Sera e me lo incornicerò in redazione. Dopo metteremo anche la foto di questa cosa su Twitter, Alino Milan, e su Facebook per chi ci segue 24 mattino. Il titolo è questo: Atlante populista italiano, di Ernesto Galli della Loggia. Analizza il voto, la vittoria, il successo elettorale di Grillo. È populista chiedersi quali sacrifici hanno compiuto l'onorevole Rosi Bindi, faccio per dire, o che so, il senatore Latorre in questi ultimi 15 mesi, mentre alcune centinaia di migliaia di italiani perdevano il loro posto di lavoro? È populista chiedersi quali effetti del rigore governativo abbiano subito l'onorevole Bondi o l'onorevole Cesa, sempre tanto per dire, nello stesso periodo, mentre 800.000 famiglie italiane chiedevano la rateizzazione delle bollette di luce e gas che non riuscivano a pagare, o decine di piccole aziende o negozi erano costrette ogni giorno a chiudere? È populista? Forse sì, chissà. Ma allora, per passare dalle stelle alle stalle, erano populisti anche i sovrani inglesi quando decidevano durante la Seconda Guerra Mondiale di restare a Buckingham Palace nel cuore di Londra, colpita ogni notte dai bombardieri della Luftwaffe. O forse erano populisti, e va da sé della peggior specie, anche i membri dello Stato Maggiore tedesco che nell'autunno del 42 consumavano alla mensa di Berlino lo stesso misero rancio che a qualche migliaia di chilometri di distanza consumavano i commilitoni assediati a Stalingrado. Eh sì, orribili populisti, ci assicurerebbero i sapientissimi nostri intellettuali che sermoneggiano in ogni sede su cosa è la vera democrazia. Sì, tutti populisti, come Beppe Grillo, naturalmente, chi lo ha votato. Si dà il caso, tuttavia, che le classi dirigenti vere, i veri governanti, facciano proprio questo, guarda un po', specie nei momenti critici, cioè cercano di mettersi allo stesso livello della gente comune, di condividerne pericoli e disagi, in questo modo di meritarne la fiducia. Non vanno ogni sera in TV da Vespa, da Floris, da Santoro. Una classe politica che ha il senso del proprio onore, delle proprie funzioni, Deve essere capace di sentire quando è il momento di stare dalla parte dei suoi concittadini. Se non lo sente, ecco allora che sorge inaspettato, inevitabile, a ricordarglielo il cosiddetto populismo. Certo, il populismo si limita per lo più a invocare comportamenti diversi, denuncia ingiustizie, latrocini, insiste sulla moralità, della qualità delle persone, non è propositivo, come si dice, fa come ha fatto Grillo, appunto, ma sarà pure lecito chiedere: c'è per caso qualcuno tra coloro che sta leggendo queste righe che ricorda invece una vera proposta, per così dire, strutturale, avanzata in questa campagna elettorale da Casini o da Bersani? E c'è qualcuno che ha ascoltato Vendola illustrare come immaginava di finanziare l'Eden che nei suoi programmi si compiaceva di dipingere per il futuro? Volendo però entrare nel cuore della presunta assenza di proposte e veri obiettivi politici da parte del populismo grillino, la domanda decisiva da farsi mi sembra questa: a conti fatti, voler mandare a casa un'intera classe politica costituisce o no un obiettivo politico, e non da poco, direi? Costituisce o no un programma, anzi un ambizioso programma elettorale? Nelle condizioni date, qui oggi, in questo paese, quale altra via esisteva per cercare, non dico di realizzare, ma di affermare con forza quell'obiettivo, se non il voto per la lista di Beppe Grillo? E poi, non bisognava votare Grillo, si dice, per non dispiacere ai mercati, all'Europa, per non farci massacrare dallo spread. Evidentemente però molti hanno pensato che forse la qualità dei governanti è un prius rispetto a qualunque altra urgenza, che forse una classe politica screditata e corrotta non solo alla fine non dà alcuna vera garanzia alla stessa Unione Europea, ma soprattutto non garantisce una rappresentanza e una difesa adeguate degli interessi nazionali. Ernesto Galli della Loggia, lo incornicerò tra mezz'ora, non di più, no, alle 9:05, dopo il caffè, il traffico. Allora, le 7:48 minuti, era l'editoriale prima pagina del Corriere della Sera, visto che qualcuno mi scrive che vuole incorniciarlo anche lui da qualche parte. L'editoriale di Ernesto Galli della Loggia in prima pagina del Corriere. Oggi c'è un'analisi ancora del Sole 24 Ore, per esempio, su Grillonomics, ai raggi X, il programma di Beppe Grillo su Stato, mercato, TAV, grandi opere, economia verde, l'IMU, taglia i costi della politica, referendum sull'euro, cosa propone Beppe Grillo. E con questo bisognerà fare i conti, vista la forza che hanno conquistato il numero di seggi. Lo trovate a pagina 15 del Sole 24 Ore. Poteva mancare anche l'intervista a Adriano Celentano. Dario Crestodina, vice direttore di Repubblica, intervista Adriano Celentano, e la cosa straordinaria per me non è tanto quello che dice un po' le solite cose, che anche nell'intervista, cioè botta e risposta, ci sono le risposte con alcune parole di Celentano in maiuscolo. Sapete che ogni tanto manda le lettere e io, per fare capire in radio, come dico, le sottolineo così, no? Le parole in maiuscolo. Allora sentite le domande e la risposta di Celentano con alcune parole maiuscole. Fin da primi suoi interventi, e parlo di qualche anno fa, parla di Grillo, ho subito visto in lui il seme del cambiamento, quel seme che sotto le fronde della sua innata comicità si nascondeva forse volutamente ai tanti farisei concentrati solo a deriderlo. Lui ha incarnato la rabbia degli italiani, stanchi di essere spudoratamente manipolati. Ecco, così risponde con le parole, probabilmente dice all'intervistatore, però queste parole devi metterle maiuscole. Poi il programma di Grillo, sì, l'ho letto, non ho trovato niente di banale, risponde Celentano. Può darsi che manchi qualche voce per essere perfetto, ma gran parte dei suoi punti sono condivisibili. L'abolizione del finanziamento ai partiti, l'abolizione delle province, l'abolizione della devolution. Non è che è un comizio, ma sono sempre maiuscole, fatta dalla Lega. E poi tutelare la salute. Questo Beppe Grillo secondo Adriano Celentano. Vabbè, l'intervista è un'intera pagina. Grillo incarna la rabbia dei maltrattati, Bersani ora creda in lui, dico solo a Beppe un no, il referendum sull'euro, così Celentano. E Berlusconi? Beh, Berlusconi, il cavaliere non si scompone. Questa è la reazione di Berlusconi, che ieri ha proposto questo governissimo. Sentite, Alfano ha detto: facciano pure se vogliono andare coi grillini, poi vedremo dove va questo paese. Il retroscena del Corriere della Sera di Paola Di Caro, che trovate a pagina 19, è questo: il cavaliere non si scompone, tanto dovranno venire da noi. Questa è la posizione di Berlusconi. In Groia invece, attenzione, racconta il Corriere, dopo la disfatta elettorale anche sotto accusa, prima il rovescio elettorale, racconta Virginia Piccolillo a pagina 26 del Corriere, ora la Procura Generale della Corte di Cassazione ha aperto nei confronti di Ingroia, candidato premier di Rivoluzione Civile, ex procuratore aggiunto di Palermo, un provvedimento illecito disciplinare per avere vilipeso la Corte Costituzionale e leso il prestigio e la reputazione dei suoi componenti. Un atto di incolpazione giunto ieri al Consiglio Superiore della Magistratura. I motivi: avere gravemente mancato ai propri doveri di correttezza, riserva e equilibrio, ponendo in essere comportamenti idonei a integrare violazioni di specifici precetti penali tali da ledere l'immagine del magistrato. Quali sono questi comportamenti? Le interviste. Proprio così. Ad Antonio Ingroia vengono contestate le interviste fatte nelle quali avrebbe detto cose lesive nei confronti della Corte Costituzionale. Ora, a parte la, perdonatemi, la ridicolaggine della vicenda, la vicenda comunque è emersa ieri. Giustizia a disorologeria, si potrebbe commentare così. Intanto le borse vanno giù, lo spread vola a 344, oltre l'1%, il tasso bot, tutta l'analisi delle reazioni dei mercati la trovate a pagina 2 e 3 del Sole 24 Ore. Intanto alla regione Lombardia, che devo andare veloce perché il tempo sta finendo, c'è la vittoria di Maroni del centrodestra, quindi della Lega, mentre nella regione Lazio vince Zingaretti centrosinistra, così in Molise frattura del centrosinistra. Vi segnalo come pagina interessante Michele Brambilla sulla Stampa, pagina 19, il fiasco perfetto della sinistra che non seduce la Lombardia. Cioè, scrive Brambilla, è la sconfitta perfetta che si materializza ieri pomeriggio. Dopo la delusione per la mancata vittoria alle politiche, anche la sconfitta in Lombardia. Sconfitta perfetta perché non era facile perdere anche qui. D'accordo, la Lombardia è da almeno 20 anni un feudo del centrodestra, Maroni è un candidato forte, ma non era facile perdere contro una coalizione che ha dimezzato i voti nel giro di pochi anni, non era facile perdere dopo che la giunta uscente era stata spazzata via con ignominia dalla magistratura alla fine di una serie di scandali senza precedenti, e vengono ricordati Formigoni, le vicende di Renzo Bossi, il Trota, le accuse di voto di scambio all'assessore regionale Zambetti con l'Andrangheta, il caso Nicole Minetti, insomma tutto questo nonostante ciò la sinistra ha perso. Questa è l'analisi di Brambilla anche nella regione Lombardia. Vabbè, ci dobbiamo fermare qui? C'è solo spazio forse per Diego Armando Maradona, trionfante a Napoli con il rompipallone di Gene Gnocchi. Maradona vuole incontrare Napolitano, potrebbe incaricarmi di formare il nuovo governo. Chissà, va buono tutto di sti tempi. Il giornale radio.